oggi il proscende. Cosa vai? Sei messo un canarino? Io ho vai fino, vai, sul 14 fischiando, non già pensi, va giù. Sai, io c'ho il drone che cammina. Ah, avete fatto questa. Non oggi il proscende, non ti ho detto qua. Sai, io c'ho il drone che cammina, tutto sotto controllo, mascherato. Allora, tutto a posto, anche tutto a posto, tra ieri e oggi, tu? Beh, ieri non era così male, oggi c'è questo vento maledetto, che non mi fa paura, però, dico, è sempre un vento brutto, che non serve a niente, non ha piovuto, niente, nulla, e adesso si è anche calmato, lo sai, si sta calmando, sicuramente piove stanotte. Vabbè, tanto io non piatto ieri, ma io vado in liscio, perché ero una mano ieri, perché ero un culo, tanto in liscio, se c'è un taglio oggi è differente, io vado in liscio oggi differente. Sì, sì, sì, tempo brutto, vabbè, parlato comunque c'è che peggiorava a fine settimana, lo vediamo domani e poi a lunedì come si presenta il tempo. No, ieri non era male, però sono giornate così da, non è che sono belle belle, ma si inizia magari metà marzo, dai. Ma però non faccia brutto, cazzo, durante la prima, una cosa fatto di guardare il bello, ma vai, lo scatto in un inverno a sinistra, quindi una cosa fatto brutto, pioggia, soprattutto. Ma le piogge primaverili e estive sono brutte, quelle sono dannose, fanno danno, capito? È meglio che piova adesso e poi qualche pioggerellina leggera, ma serve scaricare, è meglio scaricare adesso. Io ho fatto i lavori in campagna, ho portato la figlia, ci ho avviato a culo, poi ho passato un po' di circolatore in giro la recensione, sotto quella da al muro. Poi ho fatto la stanza, mi ha fatto molto codificato un po' di terreno per poter passare la picciola, cioè il continua. Adesso c'ho 200 finocchi, poi ho messo un po' di lavanetti, poi ho messo 30 piante di capriafoglia. Adesso ancora da 10 giorni mi ho dato la parte per il terreno, ho piatto 50 piante di zucchine, 50 di melanzane, poi ho messo i pomodori piccolini da tagliera, capito, un po' di piccola. E cosa fai poi? Al mercato li porti? Bene, tanto per la lasciarla buttata per terra e migliorarla, io già non c'è problema. No, frutteto io non ho. Non ho frutteto, c'è solo qualche albero di olive, come sempre, ste cagate che a me poco piace. Infatti già si seccheranno. E basta, e alberi normali, insomma. Alberi normali da giardino, vai. C'è da lavorare, perché se vuoi risultati nella campagna c'è da lavorare. se l'abbandoni, hai bescio Fabio, perché non ti dà niente, capito? Ci vuole sacrificio, ci vuole, ecco perché sto dicendo io, diciamo che in linea di massima non c'ho niente. C'è un pezzo di giardino, però è a prato, ci sono alberi normali, capito? È un po' di alberilli così, abbastanza giovani di olive e basta. Ma quelle poi vediamo di toglierli pure e mettere qualche albero più bello. Non mi interessa nemmeno tanto, io non sono capace, non c'ho tempo, non mi interessa avere queste cose, capito Fabri? In famiglia non penso, insomma, forse mia sorella c'hanno il giardino con alberi di frutta, però io non mi va. Tutti i vari a tutte le regioni. No, ecco. prima, vuol dire che è stato fatto un grande lavoro, lì se no gli alberi non crescono così, non fa bene. Infatti quella è la mia paura, se la baidala mi viene usuto, no, ti rispetto io, se mi metto a tagliare erba, a fare queste cose va bene, a pulirmi, però non mi dite che hai pure tutta, no. Non mi interessa, Fabio, capito? E vabbè, ma se c'è la tua piattaforma così, non si può, però è qualcosa della frutta, noi diciamo, però che la nostra cultura è l'interno, fare i mercati, i seguirli, tu quasi il punto devi fare della tua qui, come infatti quando ho prima delle scarpe, che è proprio quasi un fiore la lavoro, e la diamo, di nuovo le poi quando si è fuso non si è più passare, non più magari tutti i lati, fare il fuso e così, quando mi fai lavoro, mi fai due qui, la fermata la porta di lasciare, più va, poi quando entro in regione, quando vedo che c'è il tutto dell'aspetto grande, no, perché quelle noci oppure quelle con la quelle veluttate, dai. E poi i tre ci sono col pelo, diciamo così, però sono i tre di tre mesi, sono di giugno, di luglio e di agosto. Ma poco fa abbiamo fatto cacciofi. Cacciofi, allora vedete tutti. Uno, la terra. Buonasera, ciao Fabrizio, guarda chi ti sente. Ciao Giancarlo, ti ascolto. Quanti anni c'è tu, Fabrizio? 15, 7 e 4, è una cosa che c'è più forte, capisci? La vedo che era ascoltata, era di 20, poi come mai, poca protetta? No, non so, aspetta che guardi, credo di no, non ci vedo molto, forse ero lontano, Fabri, ho detto, quanto c'è di terreno lì? È quasi mezz'ettaro, mancano pochi metri, sulla carta sono 4.000 nuove strade, una cosa del genere. Io ne ho uno, un ettaro, poco fa non io, ma l'ha detto che abbiamo qua l'appassionato, ha tolto i carciofi che sono enormi, gigantischi. Ma i carciofi non si ha tanto anche il piatto, per non dire che ci va bene, non è la notte. Però la mia cucina per i due, cioè le carciofaglie, me la voglio entrare, non lo dare, non è la notte. Non è che ho cercato solo per dire che gli omessi è fatta, ma tutto questo. Ci andavo ogni fine settimana a bere un caffè con lui e mi va a fare occhio a toccare. Poi un po' questo me la fai niente, poi ci vuole una cosa per ora, non la fai niente, ma questa roba che vado lì e lo va a fare pure. Sì, ma anche qua è piccolo l'orto, non è che... Non è che tu puoi entrare in terra, c'è anche la casa grande in mezzo. Ma no, poi c'è altra roba, c'è un sacco di roba che è anche so perché non me ne occupo. La verità è proprio su quello, io mi occupo di questioni tecniche, ognuno il suo. Però ogni tanto già ci passo a controllare, a verificare. Io mi occupo più che altro delle questioni idriche, elettriche, eccetera, o così via. Ti piace o no? Sì, la notte è quello che la notte che faccio per fare il suo, per fare del commercio, cioè quella rodazzina, quella la fosse in casa, quella per cui la mente con gli amici, che non è un problema, per cui i pensieri delle spese, la voce ufficiali c'è tutto l'anno, poi c'è il compito di fare la bevuta di scuola a sorte, le cose, le altre cose che avranno esterne, così, invece tutto da lì, non mi metto il fuori da parte, una volta che c'è, tu pensa, c'ho 11 altri melograni, melograni che fanno mezzo chilo l'una, io ho una fetta grossa, poi grano, tra i grani, grani una quarta nuova, quindi io ho venuto tutti quanti, quest'anno a 2 euro il chilo, ma mi ha fatto 600 euro da quegli alberi. Anche noi ce ne siamo tanti, non lo sanno, quanto, ripeto, non me ne intendo, però, sono anche quelli, non sono, sono solo io, ma passa male. E, insomma, una bella cifra. Vediamo se è quasi necessario. Sì, sì, sono qua, sono qua. Pallate, pallate. No, questo caffè è mia. Ma quello che lo faccio. Quello lo fa tutto con la zappa, vecchia maniera, così chiama. Marta è da piccolo, così. No, non ne ho io, no, Gianfra, assolutamente. Io non so se hai visto il... Vabbè, non te l'ho mandato a te. Però tutto platto, platto inglese, cosa giardino? Cosa, non ne voglio nulla io. Ci sono appunto degli alberi piccoli, piccoli che sicuramente avevano già piantato quando hanno lottizzato, di olive, ma ne li faccio togliere. Faccio togliere e faccio mettere degli alberi più belli, cioè, non voglio nulla io, no? Ci passare un raso a tratto e basta, non ne voglio da zappare, zappa di rondù. Fatta inglese, non ti credo, siamo scherzi. Non sono delle persone che ci fanno manutenzione, ma quando fanno, non farà, quelli di là. Sono quindi dal tuo padre, difficile di comprare il trattore, anche se c'è il giardino di un paio di metri quadri. Però mette sopra e pianta. Sono 1000 metri diviso due, perché c'è il muro confinante e quindi sono 500 metri. Ma non cominciamo a fare il conto. Mi prendi, sai? Io faccio tutto con un altro coltivatore, con due, a farci calzare, insegnare la lancia. Se io ora gli amore faccio tutta la campagna, ma faccio due cose, per questo problema. A parte un trattore che è una cosa molto grande, è stato pescato, ma c'è un trattorino di un milione di cui si sopra, ma non è pescato, capito? Non si ripete, molto coltivatore, 14 calzare, ce n'è e la casa. Ma per la campagna, è chiaro, ma per un pezzo di coso così cosa avevi bigliato? Molto coltivatore a Farosa. A fare che cosa? No, Gianfra, no, non ce n'è problema. Stai pur certo che non ho bisogno di manutenzione di nessuno io. Assolutamente, guarda. Ne ho quattro colleghi io per i tagliari, quindi lo facciamo noi il prato inglese e l'irrigazione, grazie a Dio, già me la so fare. C'ho tutto quello che serve, tutto, dalla A alla Z, proprio i suoi tubi, i suoi tutto. Centraline ne ho quanto ne voglio io di irrigazione. Trovare qualcosa da fare per la pressione, ma ho capito che farai tutto barbecue e forno a legna. Allora, cosa pensi, mi muovo da qua, non sarei manco. A giocare lì con i cani, con i pottini, capito? E via, e arrostire forte. No, non è per me la campagna. Guarda, io prima di venire qua, quando mi sono sposato, ho abitato circa un anno a Serralonga, una bellissima casa, mi piaceva tantissimo, non distante da Sassari, una bella casa, singola, abitata, ce n'erano tre o quattro vicine, c'era questo giardino tutto ad orto, c'era di tutto, finocchi, lattuga, le farrette, il prezzemolo, l'aglio, la cipolla, di tutto, vero, Fabri? Di tutto. E quando me l'ha affittata, perché sono rimasto affitto un finita a casa, mi sono sposato prima, dopo mi sposo tutto male fuori. E il padrone di casa, che poi è una persona, non so manco se è vivo più, ma era già grandetto, mi aveva detto: guardi, se non si offende, intanto so che lei abbandona tutto, può prendere quello che le piace, basta che non lo abbandoni. In caso contrario vengo ogni tanto e glielo insomma, lo tengo come se fosse il mio, e poi lei faccia quello che vuole. Si prende la chiave del cancello, intanto era il cancello per entrare con la macchina e il cancelletto per entrare nella casa. Quindi entra dal cancello grande, dal cancelletto, ha girato le chiavi, lo vedevo il sabato e la domenica lì che innaffiava, faceva: buongiorno, buongiorno, qualcosa le preparo, le taglio, no, mi è venuto a me. Io faccio questo tanto passare, ma che non mi piaceva, e poi hanno provato a campare a dire veri, cazzo, di tutti i tempi. Io c'ho un amico, che abita sotto la ferrara, che ha detto, dice, tanto è calottario, c'è un po' di corona, non è grado, fa di un lato di grado. Mi stavo andando a pensare, quindi mi stava solo, e campionava a lungo loro che la scuola sta abbandonata, funzionava. Quindi io sono andato, perché non lo conoscevo, però non sapevo che si trovava una petizione lì. Mi sono tutto la metà, e mi sono detto, io qua la sua casa, me l'ha crociato, e l'ho pulito. E tu pensi, ho fatto due buste di quello storo grande, infatti, sono andato a casa, infatti dove l'ho fatto quello storo? Ah, da vicino, ma no, quindi, infatti, un altro terreno, non sapeva manco che c'era il lago di quello storo. Ma infatti poi alla fine mi comprendevo accidenti. No, io ero lì a Serralonga, praticamente dove c'è il maneggio, non so se c'è ancora, c'era un maneggio prima, esattamente dove abita Arghitto, dove c'è la casa Arghitto, la campagna Arghitto, la casa Arghitto, non lo so, comunque c'è Arghitto lì, quello delle piante, capito? E a fianco c'era Redda, la casa di Redda, quello dei mobili. Belle case erano, infatti poi ci ero affezionato, le avevo detto facciamo un cambio, l'appartamento a Sassari è finito, è proprio nuovo, e lei mi lascia questo, ho detto guardi, non ci vinco, non ci perdo, però a me se lei mi toglie questa casa in campagna, cazzo casa in campagna, era 150 metri quadri, bellissima, molto bella, un cancello elettrico, molto bello, e infatti non me l'ha voluta dare. Tutto qua, però c'era un bel orticello, ho solo orto, piante di frutta non ce n'erano, solo tutto orto era, ma così curato, con questi sorti belli, c'era il sottettino del prezzemolo, andavi il prezzemolo fresco, ti facevi due favette, ti prendevi una lattuga, i finocchi, molto molto bello, molto bello, però era curato e fatto da lui, certo non è che lo potevo fare io, che il gumego in un mese era tutto usato. Ecco. E tu già fallito, hai piantato qualcosa? No, io non mi occupo, ho detto, c'è mio cognato che fa tutto, lui è un appassionato, capito? Quindi io sono una parte tecnica, quindi irrigazione, macchine agricole, quelle cose lì. Quindi sottrincia per non faticare proprio di l'erba, perché a me quando è tanta con lo scoposo di quello spugliatore non finì mai, e poi abbiamo anche una certa età tra l'altro, quindi invece con quello accendi e vai, fa la battigiata, lui lavora, e poi abbiamo vari, insomma come mesi ne abbiamo tanti per non faticare, per fare la roba. Solo che qua quando pianti la roba è solo l'uva, ecco, ad esempio, la maggior parte ci sono quegli animalacci che arrivano in picchiata e se la mangiano, come non avete cornati, sono tantissime dappertutto oramai, capito? Quindi per certi versi non è che si può mettere lì a farlo in maniera certosina, se poi ne arrivano le cucciallacce che non mangiano tutto, capito? La cornacchia mi fa bene, mamma mia! Non hai mai avuto tu problemi con gli alberi della frutta? Ma io l'ho fatto tutta, mi ci sono antichi, ho contrattato, mi facevano anche i fichi, mi facevano la casa, poi ho fatto la colazione, e l'ho siamo più, capito? E proprio questo cazzo di coma che sono state coperte, non capisco perché, stanno andando la paura, non lo sa neanche perché ci mangiamo fatti un tiro di anguria. Le angurie, giuro, tutto ci mangiano, tutto ci mangiano, capito? E poi il periodo degli storni, il periodo degli storni è un disastro. No, no, ma lui l'ho mai visto, tipo lui fa la tua parte, ma ho visto la mangiata da uscire da niente. E come altri piacevano i figli, quindi trovavo qualche pezza di carta, ho detto, ma poche, una decina, capito? Ma non è che lo fate sì, ma se lo fate l'ho fatto sì, quindi ma cosa ricordo più? Se l'hai messo qualcosa spesso di loro? Sì, si è passato per strada, qualche zona di bella della colmacca uccisa, mentre questo giù l'ho messa a portare, era stato il telescopico di una sera di Charter, dove sono salotto di accento, e poi ci ho tirato l'altro, però mi sono fare con un filo, la lacciuolo, le due piante della colmacca, le sapete giù. Quindi ho messo due strade passate, fatti con due marecchini, da minuzio, e poi i classici fili colorati da campione, la terra. Quindi tutti lì, e ti ripeto, ma cosa vi dire? E cosa ho visto al vignetto a Parigi? I CD appesi nel pergolato, nel fil di ferro. No, ogni metro CD vecchi. Non so perché, forse perché già fa riflettono il sole e non si avvicinano. L'ho fatto anche io, perché io li appesi sempre io all'albero, oppure abbiamo tutti i cieli di mezzo, e come si muovono, riflettono i passaggi agli occhi. Signori, abbedami, io l'altro giorno sono riuscito a portare il cane di mattina, minimo c'era una ventina sopra l'antenna di cornacchi. Sono rientrato col cane, ho fatto girare l'antenna, li ho visti volare dalla finestra, tutti sono partiti. Sì, sono delle bestiacce. Poi qualcuno dice che se la mangia anche, ma sono trucchi della palla, infatti non guardano neanche le cartucce a sparare, hai capito? Ma questa è perfetta, perché non saranno da figurare, capito? Perché sono entrati due uccise dal camion, okay. Uccise dal camion? No, dal camion, capito, l'ho trovato in terra, no, stanno adesso mangiando l'erba, quindi si hanno buttato il carattone e sono riusciti a prenderlo, e l'hanno sgranato tutti e due, là. Addirittura? Si sono fatte prendere, una cornacchia è un bel furba, Fabri. La cornacchia è un bel fuiba, ma fuiba però, puzzinosa. Fuiba, lui l'ha portata, il cane l'ha portata, perché l'ha portata di altri a casa. La prima è sicuramente la mia metallerba, e non si hanno visto, non si è fatto per il cane. Piano piano, io ho visto la dieta, e ho riuscito a prenderla, ha capito, ma l'ha portata, capito. Vuol dire che era impegnata a mangiare, perché è stata a pagare. Quello è infatti, sicuramente era impegnata e non se ne è accorta, il cane gli è piombato addosso, ma se no è molto difficile che si faccia prendere Fabri. Vabbè. E allora Gianfra, ci ha detto io, è finita dai? Quasi, diciamo, ci mancano i ritocchi, dai, qualche ritocchino e poi è così finita, comunque l'importante è che faccia il suo lavoro, che protegga quello che deve proteggere. Così almeno evitiamo che si guasti la roba che c'è sotto. Qua addirittura ho visto le cornacchie che allontanano i gatti, guarda, noi abbiamo parecchi gatti, ma quando c'hanno i piccoli diventano minacciose, proprio si abbassano e li minacciano. Il gatto ci riprova, va a tentativi, ma è molto minacciosa la cornacchia, non è di quelli che scappa. Ma Marco, la cornacchia ti attacca, questa è la cosa che fa la soprattutto quando gli cadono i cuccioletti dal nido e poi all'interno non riescono a pelare, perché c'è stato gatto, anche il cane, loro sono in grossa attacca tutto, è tutto il cucciolo. E quando attaccano il cane, la testa, l'uomo, è micidiale, c'è più il prego. Sì, ma mi hanno detto che basta aspettare una mala e l'ha chiuso, eh. È un punto debole, d'altronde di tutti i volatili. Colpiscilala, boh, finita. Ah, vabbè, sicuramente. E così io, sono micidiale, cazzo, boh, e sono prospetto, credo, boh. E dunque sì, non si possono sparare. Non si possono sparare né le cornacchie né nei picciori. Non lo so perché. C'era da poco anche un'ordinanza. Però ti ripeto, sono animali che il piccione Sant'Antonio mio. Piccione quando sporca e ti cade sulla macchina è meglio che lo togli subito. Io mi ricordo anni fa ci ho rimesso un cofano, l'ho lasciata troppo, dopo la tolgo si è seccata, mi ha fatto la chiazza bianca, manco con la pasta abrasiva ne usciva. Tu conosci ormai, fatta a te che stava seccata sulla, tutta tutto che si mangia la vernice. Non c'è il piccione, ma lo già mangiano, boh. Purtroppo sì, io faccio avevo visto un neon dello zio, però onestamente non hanno dato fastidio più di tanto. L'unica cosa è che quando facevo qualche rumore, no? Sentivi questo rombo micidiale, da vicino sembra un aereo, è una cosa micidiale, sentivo e vedi tutta questa nuvola che si solleva. Però da noi non atterravano, andavano alla campagna vicino. E lo stesso all'inizio vedevo anche che c'erano i conigli, poi sono spariti, non li ho più visti, erano bellissimi. Correvano velocissimi dei missili, quindi neanche il gatto di pente. Velocissimi. Poi dopo che sono spariti i conigli, ho visto che la notte sul tardi veniva a trovarci una volta. E quella è lo stesso molto bella, c'è una coda enorme, però è diffidente proprio. Infatti se sentiva che la stai guardando scappava, la poteva guardare solo tramite la videosorveglianza. Oh, mio amico Abadesi, gli hanno distrutto la vigna. Sono scesi, ma una cosa indescrivibile. C'è una nuvola nera, una nuvola nera. Sono scesi in questo vigneto tutti assieme, tutta l'uva ne hanno mangiata, ma mangiata distrutta proprio, è distrutta, completamente distrutta. Non ha potuto fare il vino l'anno scorso perché gli hanno distrutto la vigna. E poi io li ho visti da vicino, non sono piccolini come, in volo sembrano piccoli come uccelli. Cazzo a terra, sono mannegante un bidisommi. Una nuvola Fabri, una nuvola. Mi ha detto, non hai mai visto cosa lumenteghista, mi ha detto, proprio una cosa allucinante, sono arrivati a migliaia, una nuvola nera, mi hanno mangiato tutta l'uva, distrutto il vigneto, proprio distrutto, capito? Non si poteva più fare niente, distrutto, ed era due mesi prima di vendemmiare, un mese e mezzo, due mesi, dai. Distrutta la vigna, non ho potuto vendemmiare perché non c'era uva, era completamente tutta munta, tutta buccata, tutta proprio distrutti i grappoli, capito? Mausante era bella, io l'ho conosciuta, lo so dov'è, capito? Lì a Badesi, nella zona per andare a Montigioni, Bellissima, bellissima vigna, proprio sta col pergolato, non è grande grande, comunque ne ha. Molto bella, molto ben curata, figurati, passava col trattorino lui in mezzo, bella, bella, tutta a paletti, col pergolato, distrutta Fabri, distruttami, l'ha rimessa in piedi quest'anno, piano piano, la prima tutta portata, tutta rifatta. E penso che quest'anno metta il coso, il nylon sopra il, o qualcosa di protezione, le reti sicuramente di protezione prima di vendemmiare sopra il pergolato, capito? Sicuramente. Sì, sì, sì, no, ma me l'ha già detto, metterà le reti, il telone, l'ha detto comunque sulle reti, che copre come inizia l'uva, copre, perché se no, sì, beh certo, se lo vende il vino, lo vende alle cantine sociali, figura di due. Stai scherzando, quindi ha perso una barca di quattrini, non è grande, ti ripeto, però è molto bella, bella allineata, tutta, molto bella, c'è anche una bella casetta, peccato, ma il cattaldarese era, ma me l'hanno fatta vedere, mi sono spaventato, no, ma io sono teppisti, non sono teppisti, no, sono chi si così di ristorni so, chi si, mi hanno rovinato tutto. Anche quello è un casino, però questo poveraccio, mamma mia, infatti l'anno scorso ci siamo fermati, un mio collega stava portando proprio a zero per fare crescere bene la vite, per insomma per rinforzarla bene, si è mangiato tutto, non è rimasto nulla. Ecco, una cosa allucinante, non so potuto neanche intervenire, insomma andiamo e visto a me perché era una nuvola nera, immaginate una nuvola nera è caduta sopra, scesa rimpicchiata sopra questa vigna, capito? Proprio io andiamo tutti lì che c'era da mangiare, via, in 10 minuti non aveva più nulla, proprio sono rimasti i grappoli attaccati, tutti bucati con tutta l'uva per terra, tutto già rimagnato. Vai Gianfra. Sono micidiali, poi cavalletta, ma io ho capito perché poi non si può sparare, cioè io capisco che non si può sparare quando sono pochi, quando fanno estinzione va benissimo. Cavolo, qua sono migliaia, cioè non credo che abbiamo problemi di estinzione. Cattedristi, i temperle con macchie, ma parliamo dei cinghiali, poiché anche quelli qua si avvicinano, ma l'hanno qui stesso, la strada che c'è per uscire, addirittura. E questo caso, non è che sia campagna, nel senso che magari non pesa, diciamo, sì, sono terreni anche grandi, però hanno la casa, hanno le piscine, hanno per quelle cose. Poi c'è anche il campo da semi. Di più c'è il vallone, evidentemente dove passa il treno e magari ci arrivano da lì. Come ci Non ricordate quella invasione dei cavalletti che c'era stata? Beh io non lo sapevo, la cavalletta dice che è peggio di quegli uccelli. Perché sono milioni e poi sono voracissime, no, non si fa conto. Cosa allucinante, io non sapevo, mi ha detto un agricoltore, ma ha detto questi sono peggio delle cavallette, i cavalletti, ha detto perché la cavalletta adesso, cosa fagli? E si fa la comprano sempre di Baresi, dice se scende mi faceva le cavallette per liquidi libri, dice non rimane niente, nulla, pare di dice animali piccoli, animali che non morsicano, ehi, tu vado a vedere. Mamma mia, Sant'Antonio mio, allora, e tu immaginati io quei lì ce li ho a Padoletta, capito? In quel residence che c'è di Padoletta ce ne sono 200. Tutto il giorno qua, ma posso lavorare io con questa mimbra? Perché poi era sempre la mimbra, c'era mi dai questo, mi dai questo, mi dai questo, e sto attaccato allo sportello. E la settimana scorsa i vicini urbani, il borghese, l'hanno pizzicato. Adesso chissà che ce la facciamo con la 60 euro come minimo al giorno. Esatto, capito. Proprio sapremo, grazie, che ci si faceva giornata così. Ma poi io, ma tutto quello che funziona, quale è la cosa che funziona? Via la cosa, via la cosa, via la cosa. Ma che prestarsi, ci vivi qua su. Ma come niente, quella è colpa tua, amica, qua. Per colpa di una bicicletta a sinistra, che stavo guardando questa schifezza. Ma a me stai dicendo? Cosa vuoi dire la Claudia? Io dico che c'è una legge che nessuno rispetta, che è una volta, non so se guardo l'altra, mi interessa i Sassari, c'era divieto l'accattonaggio, eccetera. Questa è la città dell'accattonaggio. Solo che loro fanno un controllo di fuga, e lo fai tutti da fare, ma non so se è uguale, ti mettono un controllo di fuga, la situazione di questo stato di fuga, capito? Questa è la realtà, ti mettono un motivo, ti mettono un controllo di fuga, fanno quello che vuole, è di fatto, questo è solo sicuro. Partite, col capo a loro, e il bingal, capito? Questa è la realtà, avanti qua. Sì, ma dalle 60 alle 120 euro al giorno, ok? Le cambiava lì nel dove ci sono i dove c'è il bigliettaio della TP e dove c'è quello della rimozione macchine, capito? Le cambiava lì, non tanto loro, ma anche le persone che parcheggiano lì e che praticamente lavorano lì e si sono stufati, quindi hanno chiamato i vigili urbani, il borghese l'hanno proprio denunciato per accattonaggio, perché non si può fare una cosa del genere, ma stai scherzando. Proprio chiedeva con insistenza e se non glieli davi quasi quasi ti minacciava. Come ti? Non so bello prima lo farà da puzza. Ma io un po' lo goccio, la mazza da baseball, come ti ho detto, non te ne do, ciao, non ce ne ho, ma tu, la mazza da baseball, boom, colpa a capo l'avevo ficchito. Allora, tu sei offato, adesso te lo dovevo mettere, ok, ma te lo dovevo mettere. E dove? Cermelli quello delle gru. Perché Cermelli ce n'è anche un altro, anche imprenditore, perché Rodolfo e Salvatore non penso che facciano queste cose, ne hanno bisogno di fare quelle cose. Vivono di altro, io li conosco, anzi loro mi conoscono da bambino perché abitavano vicino a casa di mia madre, lì a Palottolese in via Cavour, capito? Quindi non penso che sia Rolfo Salvatore. Luciano era sempre cuoco, ristoratore, mi pare pure morto. Mi sembra che anche morto, non lo so. Quindi ci rimane l'altro Cermelli che è il figlio dell'ex sindaco, ci sei? Quello è un imprenditore lo stesso. Forse ho stato un attimo più giovane. Non dovevo avere più di 54 anni, capisco, a vista da fotografia del giornale. Non dovrebbe essere più grande di questa città qua. Cos'è, Cicciottello con la barbetta? Cicciottello e Cicciottello. La barbetta non mi ricordo se c'è la fotografia. Vedi la barbettina, c'è la leggera, c'è lui allora. È il figlio di cosa, capito? Quello è il figlio dell'avvocato Cermelli che è morto, che lei era sindaco a Porto Torres, come si chiama? Usai, Gilda Usai Cermelli. Il figlio è, capito? Il figlio. Esatto, era il figlio della mancanza di soldi, però c'è stato il tanto coraggio di italiano, di sangue, zero, lo fatto di sbattere la porta in faccia. Invece questo, appena messo in piede, l'Italia subito sono servizi resiliti alla grande, questo è lo stato italiano. Vi sto dicendo, Fabri, che quelli che ci sono lì a Marinetta, all'Acqua Fantasy, in quel villaggio, sono serviti reveriti, c'hanno la cuoca, c'è quella che fa le stanze, capito? Serviti reveriti, c'è la lavanderia, non toccano niente, nulla, sono sempre ben puliti e ordinati, la verità, è perché c'hanno tutto, però non so abbandonarli, capito? E tu, quando io passo di domenica, perché io faccio i turni, la domenica mattina lo passo lì, che c'è la cucina industriale, quindi perché è un villaggio, cucinano lì, ok, si sente sempre il profumino buono di agnello, di carne, non li mangia né di battato, di riso e di burenta, chissi. Ah, allora fatto il pensionato italiano, la fatto il proprio, la ci faccio il tuo, questa è la realtà. Se ci sono stato mio figlio, allora che sarei divertito mio figlio, ma purtroppo non c'è più. Quello lo metto prominente, quello lì. Thank you. sarà lì. E in più se ne scavano questa cosa, se gli immigrati avanti pagano la pensione. Quelli che lavorano, quei pochi che lavorano, e gli altri se non fanno nulla, che loro la pagano la pensione. Cioè si prendono anche per i fondi. Sono rientrato. Infatti, adesso Flavio sicuramente dovrà dire grazie a quelli lì che la stanno pagando. Allora, no, te ne rivaria. Il tuo padre a Bondini va a città altri 2 anni, andammini, 2 anni e 5 mesi. Non sarei già andato da 3 anni in pensione. Puzzolente bastarda che. Ah, a Formero, scusa, a Bondini e gente a Cano. A Formero, allora. No? Non ce ne saremmo già andati. A cosa serve, non ho capito. A cosa serve? No, ma te ne rivali, è il buon grumito, ha ammazzato tutti che. Niente, vedi che si stanno aggruppando fra di loro per chi deve prendere in mano la situazione, perché l'Italia non ce la fa più, ne abbiamo troppi, troppi, capito? Ne abbiamo troppi, purtroppo, vabbè. Comunque, il coso che mi dà fastidio, Gianfra, che colleghi, ma colleghi veramente che abbiamo iniziato assieme, prima di uscire la legge, a 35 anni e 6 mesi di contributi se ne sono andati in pensione, capito? E io invece oggi travaglio ancora una vita per andare in pensione, proprio davanti. Spesso di Formero, la vibigliata è fucilata. Avanti Marco. Buonasera a tutti. L'Italia è così. Ma questi soldi che loro spendono per mantenerli, no, per accoglierli, non potevano impiegarli, investirli per rimpatriarli, visto che non sono cittadini comunitari. Non lo so, vediamo cosa ne dice Fabrizio. Io sto aspettando quello, Fabri, per darti una risposta. Hai detto bene, sto aspettando l'estate, non l'estate, adesso a maggio, il 1° maggio esattamente, aprono i 2 alberghi, sia il Torre Ruia che la Marinetta, ok? Voglio vedere che cosa succede quest'anno con queste 200 persone nere, ok, non sono razzista, che continuano a passeggiare lì avanti e indietro all'ingresso dell'Acqua Fantasy, perché lì mi è attaccato all'Acqua Fantasy. Voglio vedere cosa succede.

dicendo, guarda Fabrizio, quando vuoi che sei libero, ci andiamo assieme e ti faccio vedere dove sono. Serviti e Reveriti è un bellissimo villaggio e ti ribadisco, ben curato veramente, erba tutta bella tagliata, c'è tutto il recinto fatto a canne, bello, lì è così, no? Poi ti ripeto, di fronte all'acqua fantasy, quindi è tutto il muro a pietra, bellissimo, molto bello, c'è la cucina industriale perché lì praticamente il villaggio è gestito autonomamente da altra gente, quindi hanno la cucina, tutti i mini appartamentini che noi siamo entrati, a me mi ha fatto entrare, c'è il custode e tutte le persone, chi ha detto alle camere, chi ha detto alla cucina, chi ha detto a lavare i piatti, alla lavanderia, perché c'è anche la lavanderia, ti sto dicendo che c'è tutto, quindi sono serviti e riveriti. E i due, siccome c'era caldo e non hanno dormito dentro, erano dormiti di vola nel coso lì, nell'ingresso, in mezzo all'erba, capito? I vari animali. Il biglietto, provano a farlo due, ti trova il controllore, vabbè, cosa ti fa? Non le fa niente a loro, sono protetti, capito Fabri? Sono protetti, perché anche da poco lì, non mi ricordo cosa è successo, comunque c'era un'impresa che stava portando alberi, facendo, pulendo le strade del comune di Trinità. E questi erano in mezzo ai piedi, capito? Erano in mezzo ai piedi, sempre lì, e alla fine hanno chiamato i vigili urbani, questi, non si può continuare a lavorare così con questa gente. E hai detto, questi sono qua, non le date fastidio, lasciateli stare tranquilli, non fanno niente, però non le date fastidio perché sono un casino. Ecco, preso a favore loro. Ma infatti, non capisco perché nella zona di nulla ragionano diversamente da noi. Lo fanno, tu dico una volta solo, mi. Gusto è gusto, e se no accatta come te chiedete. È la seconda volta non te lo dicono, capito? Che vattene a brincare un gabbo. E qua purtroppo noi siamo così, dobbiamo subire, stare attenti, non disturbare, non fare. Ma voglio dire, io sono a casa mia. A uno gli ho detto l'altro giorno, che era sempre sopra il muretto del cancello, ho detto, non stare sopra questo muretto del cancello, qua è proprietà privata, tu devi stare dall'altra parte. Ok, sì, ma io così passeggiare e ascoltare musica, non fare niente di male, non ti sto dicendo che stai facendo niente di male, però non voglio che rimani qua, questa è proprietà privata, c'è una sbarra, ok, quindi tu non passare sotto la sbarra e sederti nel muretto, perché qua non puoi rimanere, per qualsiasi cosa, gli ho detto, devi rimanere dall'altra parte, dove ti hanno assegnato il tuo posto, non l'ha già più visto, di che ha compreso. Ricordate, tu a Barcalona, quando c'era la voglia batteva, un casino, neanche in bicicletta li facevano andare. C'è una volta, anche il gruppo, ha cominciato a cadere per terra. E non ho capito una cosa, perché qua a casa la marina era pieno. Quando faceva servizio alle parti di Nuoro, neanche una, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le cose che fare, non ci sono le no, però per me. Tutti conosceva quello, ma che? Perché ci andava, capito? Ci andava sicuramente. Avanti Becchi, avanti chi è? Ah, Franco è, cosa vuoi Franco? Cosa vuoi? Alta voce come Elia, oh Valì, cambiati, mettiti la cravatta e non ti preoccupi. Qui ci abbiamo Rata Pignara che sta facendo colazione, perché ancora non ha pranzato, quindi sta facendo colazione, capito? Poi deve pranzare, a cenare alle 5 del mattino. Che ti uscia va a piscio mamma doia. Avanti, Fabri. Ehi, Valerio Alghero, sicuramente non lo senti. Ma è vivo ancora? Sì, che ha fatto? Ma sempre in bicicletta oppure in macchina esce o Fabri? E poi c'è sempre lampada allo giscolo, a vino in mano. Secondo me manco licenza rinnovato più. Ah, non lo so, lui è sempre quel vecchio nominativo, ma non c'entra niente. Ormai il nominativo lo può anche tenere, non lo so Gianfra come funziona. No, il nominativo lo perde, la patente che rimane, quindi dovrà richiedere la licenza. Ma senza fare niente, deve richiedere solo la licenza e le danno il nominativo. Neanche io, io, lo sai, c'eravamo tutti, tutti, veramente tutti siamo andati a suonare Vittoria, tutti, sia radioamatori che CB, tutti, le persone che lo conoscevano Vittoria era ben voluto da tutti, caratteraccio però ben voluto da tutti, perché dava l'anima a tutti, la verità. Tutti, infatti ne avevamo, ecco, la battuta che mi aveva fatto Gianni di Lune Sole, che c'era anche Gianni, mi aveva detto, ma non c'è Carlo Sprevero, ha detto no, non c'è, no. Sì, sarà stato operato da Giustini, ah, che era, infatti, sì, mi ricordo perfettamente che Gianni di Lune Sole mi aveva detto, mi aveva fatto la battuta, sì. Eravamo tutti lì, tutti lì, c'eravamo tutti, c'era anche Piero, ricordi a Piero, sì, Piero, c'era anche, niente, lui non c'era però, non l'avevo visto, infatti, non l'avevo visto, e vabbè, si sarà parlato della dramma, io non l'ho più visto Fabri, proprio più visto, proprio niente, niente, manco quando abitavo in via Pascoli a dire, magari così di transito, sai, diciamo, uffici, negozi, eccetera, niente, mai visto. La moglie, non è più vista, anche la moglie. Non mi ascoltate? Hola? Ehi, già. Povera donna, ma la stanza proprio, la moglie del genere la vorrebbe tutti. Guarda dove andata a capitare, ma il destino è strano. Ciao Gianni, buonasera. Avanti già. Via, dai. Buonasera a tutti, dai, doppio rullo da questa parte, in parlamobile direzione casa. Adesso si è uscito? Stiamo lavorando. Stavolta si è caricato il telefono, claro, ho caricato 3 volte. Ah, infatti adesso mi viene sempre, quando ti sento a quest'ora, che sono le 7, capito, invece poi mi ricordo che non stavi lavorando. Va bene, sono io, Fabrizio, Gianfranco, c'è anche Zata Pignara, non so se ha finito di pranzare, poi c'è Valerio in QRX, D'Alghero, Franco D'Alghero in QRX, insomma siamo tutti qua, dai. Avanti, Marco. Ciao Gianni, ben entrato. Ciao Marco! Beh, è caduto, sì. Sono a mezzo palazzi, sto venendo a prendere Marco, che è da Mavicco e niente. E sono fuori zona. Io beh, ma già arrivi bene, non c'è problema, senti anche Fabrizio. Avanti Fabrizio. Radio. Oh Claudio. Eia. Ma questo personaggio misterioso di cui avete parlato, alla fine era Carlos Puntini. Ah, mio, ve ne vagoni a me. Carlos Primero, lo sto dicendo io, Gianni Carlos Primero. Non si è né più fatto sentire, è morto in Libia, quello, eh. Ah, sì. Ricordo anche il cognome, tipo spagnolo, no? Ma così è. Il vizio del vino ha preso delle signorine nere a Platamona, così è. No, ma stiamo scherzando, non fare battute che non è così, stiamo scherzando. Una volta che ha fatto Fabrizio, no, io l'ho visto, l'avevo visto, mi aveva detto che aveva un circolo, quindi siccome Fabrizio ha detto che ha messo pancia, io ho aggiunto, e sarà tutto rovino che si mette allo circolo, però io non l'ho mai visto sinceramente ubriaco, però Fabrizio l'ha visto da poco, ha detto che è ingrassato, c'ha la pancia, quindi sicuramente non sta facendo più la vita che faceva prima, perché usciva molto in bicicletta, capito? Perciò questo stavamo dicendo. Sì, sì, è lui. Avanti Gianfra. Auguriamo che sia anche andato l'altro Paolo, senza me. Vabbè, anche io vi saluto, guarda che ciao Gianni, ciao Claudio, ciao Marco e ciao anche a tutti gli amici di Vista. Casomai rientro dopo a cena. Sta troppo a cucinare quello, sta troppo. Ascolta Cristoffo, ma tu Gian ci stai andando? Perché io ci passo molto spesso in questo periodo in quella zona, ma non vedo neanche la tua macchina, ammesso che ci abbi sempre la stessa. Io sto lasciando a casa un giorno, non è che ci va a lavorare, quando ci fa lo stesso, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la Claudio. Ok, vabbè. Io controllo sempre. D'accordo, ciao a tutti. Ciao Gianfra, fate sentire più tardi se coincide, dai. Alle prossime, chi è che vuole entrare? Gianni, no, stavo provando un tastino perché qua mi stanno splatterando di brutto all'altro canale, capito? Che sono vicino alla Feroce, quindi mi stanno splatterando. E nel canale 20 sono. Ma è importante. No, io ho un tastino che praticamente quando metti quello lì senti solo quelli che ci sono in zona. Gli altri li elimina più. Quindi il canale 20 sono sempre in due, in chili, in due, in tre, fende QSO. Capite Gianni, lì in mezzo e siccome parla qua, ogni tanto prende colpi. E metti il filtro già. Ho fatto, c'ho il filtro nell'AN 48 io. E quel filtro che aveva fatto fare Gigi Vulcano per non prendere splatter, anche se sei vicino con la macchina non li prendo. Vabbè, se hai problemi ci spostiamo ancora di canale, non c'è problema. Ci mettiamo al 19 anche noi, capito? Quanto hai fatto è della Talisso perché a Londra, sì. Se dovevamo far vedere in session. Avanti Marcolino. Ehi, aia. Va bene, sì, sentivo spesso, si diceva che quella persona era scomparsa, quella ex radioattore, ma cosa gli avete fatto? Come mai è sparito così proprio? Da solo sto parlando? No, già siamo qua, avanti Fabri. La risposta non ti può rispondere, è Marco, a bocca. Sì? Se non l'ha risposto vuol dire che non lo può rispondere. No, perché in realtà mi sta preparando mia figlia, quindi mi sono girato, mi sono distratto, ma non ti preoccupare, io se mi assento lo dico sempre, capito? Lo dico sempre, quindi non ti preoccupare. Fabri. E allora, vabbè. Ormai è dichiarato così, ma noi siamo qua, quindi non diamo fastidio a nessuno. Il canale è libero a tutti, poi chi non vuole parlare, va sul 20 e parla sul 20, qual è il problema? A noi fastidio non ce ne dà. Vero, doppio route, muoviti, sono le 7:15, aiuto, devi andare a mangiare a Tyson, alle 8 lo devi portare, o in macchina ce l'hai? No, l'ho portato in macchina perché non sapevo se mi facevano entrare dentro il vulcano, quindi non l'ho preferito non portare. L'ho portato prima giù, quando lo stavo portando giù ha cominciato a fare vaga. Guarda, una sfiga oggi. E no, devo fare pure cose a casa dopo quando torno, un casino qua oggi. Una cosa all'altra solo. Vabbè, no, io mi... Dopo pranzo Marco, ho fatto la panna cotta, un bel tegamino, capito? Questo ci ho messo 3 ore a diventare tosta, Come mai? Marco! La panna cotta? Ah, non lo so, io non l'ho mai fatta. Non lo so, non l'ho mai fatta io, no. Cioè, come rimaneva, liquida? Sì, mentre il burino ci mette molto meno. Questa ci ho messo 3 ore, l'ho messa in frigo. Come dicevano le istruzioni, messa in frigo, capito? Però sono andato a girarla ed era ancora morbida, allora l'ho lasciata, adesso invece è bella dura come il budino. L'abbiamo già assaggiata, stanotte le do una bella sussa, poi a metà nottata dovrò dormire nel comodo. Già siete poco delicati. Ogni volta mi dice che siete accusi, Gianni va al ristorante cinese di accusi, tu mangi la panna cotta e sei accusi, poi lo stesso dice che mangia una fesseria, ma io allora ho lo stomaco distruzzo proprio, io mangio anche la cacca e digerisco anche quella. di una rata pignara per forza. Tu non sei struzzo, sei strunzo. Sempre mi sento a diarrea o accusi o vomiti, ma com'è possibile? Io ho sempre mangiato roba cinese ed era veramente buona. Poi non so se il mangio fosse mangio, quello è vero, però era buona. Però il sushi, a parte che il sushi è giapponese, quello è proprio a pesce crudo, no? Quello mi fa ribrezzo, no? Non ce la farei. Buono, a me non piace, però è buono. Se c'hai le sue cosettine, è buono, tranquillo che è buono, capito? Va bene. No, sto dicendo, magari mi fa, no, io c'ho un po' di colite, latte, insomma così non è che ne posso mangiare, però già assaggio, vai. Al limite domani mattina a colazione, la lasciamo, non c'è problema. Avanti Fabri, fibra. Quando vuoi Fabri, noi siamo sempre qua. Ci fa piacere se vieni a fare due chiacchiere. Ciao, tante belle cose e grazie anche a te di questo. Vai Gianni. Ciao Fabri, ci sentiamo, dai, buon fine settimana, buona domenica. Ciao Fabrizio, buona serata, buon tutto, alle prossime. Gianni, senti un po' questa modulazione. Questo è il CRT SS7009, non quello piccolo, quello grande. Signore, va bene, sei chiara, se ti stai ascoltando adesso con l'altro parlante, va. Magari che va camuffata la voce un po', dai. Perché la macchina c'è l'altro parlante per ascoltare. Sì, l'altro parlante esterno, sì. Claudio, come... vabbè, per te l'avevamo già provata, ma... CRT SS, che starebbe per Superstar 7009, che è quello che sembra... sembra l'FT 7009 ingrandito, però. Eia, va bene, 5 perfette. A proposito, mi sono dimenticato di fare sui 732 stamattina alle 10:30, è partito da casa sua Eugenio. Ci siamo sentiti sino alla piana di Siligo. Aveva tutti gli altri uno dietro l'altro, non ne arrivava neanche uno qua dei suoi amici del camper, solo lui arrivava dalla piana di Siligo 5-5. Oh, e gli altri avranno messo quelle antenne da camper che non servono a niente. Tu immagina se si mette un linearetto da 100 watt, diceva non interessa, ma avrebbe un incremento notevole. Nella modulazione non l'ho perso un attimo, nulla, non l'ho perso la saccaggia, nella cosa di Ardara, lì, nulla, da nessuna parte, niente. Sino alla piana di Siligo, poi una volta fare la discesa di Siligo, è chiaro, non ti sento più, infatti siamo salutati 100 metri prima della discesa, però sino tutta la piana di Siligo alla grande, è perfetto quell'impianto, veramente bene fa. Degli amici suoi me li mandava avanti, manco uno un'arrivia, nulla, sentivo in sottofondo lui con la radio bella, squillante, 5 perfetta. Insomma, è rimasto contento, dai, sono contento. Micidiale, mi senti anche l'acqua, gli ho detto, già ti sento, bello, sono contento. Hai detto bene di rugare su Baracchino, già hai visto che ci sono i bulloni passanti, mi ha detto, la staffa. Allora, io ho fatto lo stesso col Baracchino, per attaccare la staffa... diciamo alla plancia, cioè al cassettino, da me spiego, c'è un cassettino portogetti aperto, no? Dove metti le cose che prendi in continuazione. Io ho forato col trapano, ho messo delle viti sottili, però sono viti che saranno larghe 3 mm, non di più. Perché di solito i baracchini li danno con quelle orribili viti autofilettanti corte, però non puoi fare come faccio io, che metti e levi, no? Io ho messo delle viti con rondelle da una parte e dall'altra in modo che sia più ordinato, e poi ho messo dov'esce la vite, ci ho messo un galletto, sai quello galletto, quello con le orecchie di topoli, in modo che avvito in fretta e svito in fretta. È molto comodo per me quel sistema. Eia, no, no, ma lui va bene, quello lì va benissimo, è contentissimo e ti dico che funziona molto bene. Stavo preparando anche a stare in casa sua, mi ha chiamato, tu un quarto d'ora sto uscendo, ed era già 5-5-5-6. Come si è messo la 131, Santiago 9 è sempre pieno, poi si è fermato lì al rifornitore di muro, si è rifornito, aspettare gli altri amici, ed era più di 9 qua arrivava, non è facile da lì, non è facile da lì, perché c'è la cimenteria e è coperta. Capito, lui arrivava più di 9 e poi è partito, era sempre con un segnale buono sino alla piana del Sirio, lo sentivo 5-5, 5-6, 5-4 benissimo, la radio è sempre uno spettacolo, mi baciava, vai e vedi se ti sente, a me mi sentivano tutti gli altri camperisti e invece non sentivo nessuno, zero Edo. Sono curioso di sapere che impianto l'antenna hanno. Vedi, quell'antenna sua non è... quanto è? 1,20 m, un metro... meno di 1,5 m, Eppure fa il suo lavoro. Pensa se avesse messo l'antenna da 2 metri. Tipo la... come si chiama? La PLC... PLC 1000, no? Che è sottile ma è lunga 2 metri. Quella avrebbe fatto un lavoro ancora maggiore, ma... ce n'è d'avanzo, mi... Gianni, ci sei ancora? Riprendi. Ci sono, siamo qua. Sì, ma con il camper, anche le lunghe lunghe non fa a metterle, perché toccano da tutte le parti, pure. Quello sì, però lui l'ha attaccata al cofano, ma ha forato il cofano davanti, ha messo l'antenna, e arriva a filo di... come si chiama la cellula? Quella in vetroresina su, arriva a filo di cellula, non va oltre, capito? Capito. Vabbè, ma deve essere l'antenna è buona, perché se riesce, diciamo, a uscire lo stesso, vuol dire che va bene. Sì, è una Midland che tiene massimo 50 watt, cioè un'antenna con una carica anche piccola, cioè sottile come rame, capito? Ed è tipo 1,20 1,30, non mi ricordo nemmeno che antenna è di colore azzurro la base, e c'ha un dischetto dopo la bobina di giù, c'ha un dischetto e poi lo stilo lungo, e credo che sia su 1,20 1,30, comunque sotto 1,50 m. Lineare a lui non gli interessa, non gli interessa, se no bastava mettere l'antenna che tiene un po' più di watt, linearetto, immagina quanto, guarda, quanto arriverebbe più lontano, però ha detto per il momento non gli interessa, dai, va bene così. Ma sai perché non interessa, ha detto anche a me, perché tanto lui il campo lo usa a 500 metri, insomma, in linea d'aria dagli altri, parla con loro, capito? Però così, come stamattina, che lo sentivo già zio, è contentissimo, gli ha detto le va bene, perché ho la possibilità di fare due chiacchiere anche quando sto arrivando a Sassari. Intanto dice cosa chiamo a fare, poi se entriamo nei paesi posso parlare tranquillamente, capito? Non c'è bisogno di attaccare niente, poi magari c'è più avanti, vede di metterlo un linearetto piccolino, 747, così. Quell'antenna è della Midland, lui c'ha quella lunga e quella corta che ci ha fatto vedere. Eia, l'ho vista. Però tiene solo 50 watt PEP ufficiale, no, la mia ha una bobina più grande e tiene 400 watt di picco ufficiali, se il catalogo dice 400 vuol dire ne tiene 200 effettivi. Pazienza, ma infatti un 747 le va bene a lui, una cinquantina di watt è più che sufficiente, capito? No, ti ripeto, quella radio già da quasi 10 watt, quasi 10 watt, e per lui è più che sufficiente, ha detto va bene così, ha detto non tocca più nulla, stazionaria è zero, quell'antenna zero, perché l'ho smetrata Massimiliano, stazionaria non ne ha ed è perfetta. Gli altri amici suoi hanno l'antenna, quella corta che ci ha fatto vedere a noi, ok? E ce l'hanno tutti a base magnetica, non va bene assolutamente. E infatti gli ha fatto vedere il lavoro che abbiamo fatto, abbiamo montato l'antenna nel montante, capito, gli ho fatto vedere tutto e infatti mi stava dicendo che praticamente adesso lo fanno anche gli altri amici suoi, il lavoro che ha fatto lui, capito Marco? E infatti adesso si attrezzano tutti. E la base magnetica loro dove la appoggiano? Sul cofano stesso? Ehi, troppo piccolo così, non... Quell'antenna piccola va bene esclusivamente per città, io ce l'ho, la base magnetica, è simile lì. Quella è della Midland e la mia invece è della LEM, va bene solo per città, capito? Ma se vai fuori è molto meglio quella lunga che a lui. Vai Gianni. Ma lui già si accontenta così adesso. Per il momento lui già gli va bene così, poi se decide, perché è una cosa, lui è una cosa come cosa secondaria che la usa, non è proprio una passione grossa che c'ha, lo usa così e basta, non è che gli interessa più di tanto. Però ho detto, quando la usa la vuole usare bene, ti dico che sta andando bene, l'impianto è a posto già, perché nella piana di Sirico con 8 watt non è facile arrivare qua, anche nonostante abbia una buona posizione così come stava arrivando lui, perché non sentivo nessuno, ce n'erano un bel camper, non sentivo neanche uno arrivava. Dopo gli controllo i chilometri, sono curioso di vedere i chilometri. Da Sassari a Sirico? Sono una quarantina di chilometri, 40-50 chilometri. Poi la piana, inteso come pianura, no? Prima di Sirico, poi c'è una discesa, così è. Esatto, e Sirico dopo Bonnamaro, non è che sia a Davide all'angolo. Buono dai, buono. Buono. È bello che può comunicare anche con camper lontani, per dire, non solo con gli amici. Invece quell'antenna da camper della Midland che ho comprato io è allucinante. Sembra fatta apposta proprio per comunicare a breve distanza, perché io da Piazzali Segni, no? C'era Graziano che come chiamavo non mi sentiva. È un'antenna che rende pochissima ricezione e in trasmissione. Sembra fatta apposta per rendere poco. È lunga 1,10 m, mi pare 1,10 m, ed è in resina, capito? C'è una bobina strana, una carica, ma è tipo carico fittissimi, è allucinante. E certi camperisti si mettono quella e lo credo che non arrivano da nessuna parte. Vabbè, quello risponde a chi vuole rispondere, quando vuole rispondere, capito? Quindi che affidamento vuoi fare? Appartiene sempre alla banda del Gobbo. No, vabbè, ma Graziano è più... non è così... più smaliziato, No, ma ti sto parlando di un anno fa, un anno e mezzo fa. Da Piazzale Segni non mi sentiva. E lui arrivava allo stesso basso, tipo Santiago 2-3. Tu immagina questa antenna quant'è sorda. Io l'ho presa perché ho detto, ehi dai, non sarà così come dicono tutti, no, non sarà così. Invece è fatta apposta per le brevi distanze, quasi è fatta apposta per non farsi sentire dagli altri lì, in lontananza. Sì, ma già lo so, no, dipende, io ho sempre detto che le frequenze UHF, le frequenze, basta ci sia un ostacolo ed è un casino, non è che, capito? Guarda, in confronto la base magnetica che ho io, come si chiama? La Midland che ho io, no? Come si chiama? Insomma, 1,60 m, anche se ha la base magnetica, ma voglia se va rispetto a quella era allucinante. L'avevo pagata 45 euro quell'antenna e ce l'ho nuova di pacca. Gli ho detto, guarda se c'è qualche disperato a cui interessa, 20 euro, metà prezzo. A qualche camperista che gli interessa solo esclusivamente parlare con i camper quando sono in colonna. Così. Vabbè, glielo dico, se troviamo a Miglia non c'è problema. Non c'è problema. Ok. Avanti già, ma sempre lì fermo sì. Ma non sono fermo, sto parlando a casa. Ma sei già sotto casa tua? Più o meno sì. Va bene. Non problema. Miglia, mi rimane ancora un po' poi. Già le 7:30 sono. Sì, 7:30. Avanti Marco. Eia Gianni, eia. Bene, Hai visto che ventaccio che c'era oggi, Claudio? Non sono uscito anche per quello, tanto non dovevamo andare da nessuna parte. Domani non so come sia il tempo, non ho controllato. Non ho controllato ancora sul sito. Niente, le sai. Dovrebbe dare acqua perché, come hai visto, ha calato il vento, era lì vicio, poi ho girato a Greggiale, un po' di Levante, un po' di Maestrale, però non è riuscito a entrare in Maestrale, quindi non ha pulito e adesso il cielo è carico, non c'è un filo di vento, quindi credo che domani piova, vabbè, pazienza. Però meglio del vento, il vento è più fastidioso, anche se io non ho paura del vento, ma quando ho rinforzato il sistema, quello grande come le fasce a cricchetto, proprio manco per l'anticamera me ne passa. Teneggiamo se rompo, tranquillo. C'è sempre la cosa che si muove il sistema, ma no, assolutamente. Corazzato, vabbè che è già attaccato al muro, è corazzato, è stato che ci sono da sopra. Però abbiamo rinforzato, ok. Avanti già, sei salito? Sto facendo il cancello, caspita, 9+20, è pieno. Ce l'hai attaccato, 9+10 qua. Ehi, aia. Ok. Sì, no, Eugenio, gliel'avevo detto, se qualcuno voleva quell'antenna, anche se dubito che, a meno che non sia proprio un masochista che vuol soffrire con un'antenna che rende poco. Però io mi chiedo, tecnicamente, come fa a rendere così poco? Devono aver usato un sistema particolare. Perché, caspita, anche l'antenna piccola, quella che ho io, a base magnetica, tipo quella di Vigilio, già l'hai vista, no? Quella tipo Vigilio Urbani, quella rende meglio di quell'antenna da camper. Hanno usato qualche particolare accorgimento per farla rendere poco, non c'è spiegazione, se no. Ciao, già, e se hai 5 minuti fatti sentire, dai. Ci sentiamo, vai Marco. Ciao Gianni, dai, ci sentiamo. Io lascio comunque acceso qua, così se qualcuno porta il cane poi rientra al limite. Eccomi qua, avevo fatto anche una foto dentro di com'era la bobina. Sì, c'è delle saldature strane, non lo so. Va bene, però caspita, farla pagare 45 euro per avere un carico fittizio, un po' esagerato. La mia con base magnetica l'ho pagata meno e andava bene, limitatamente sempre alla base magnetica. Ok, e allora, novità, ma per la cena davvero vi state mettendo d'accordo? Penso che andremo il prossimo venerdì Marco, vabbè, perché questa settimana non sono potuto andare perché mia figlia ha chiuso la ieri, capito? E quindi se andavo via io mia moglie rimaneva sola e non mi va. Prossima settimana che non è chiusura, è l'aria, che è a casa e andiamo, capito? E vediamo se mi rimangono soldi, dai. Se no, pazienza, andate voi. Però sto cercando di stringere la cinghia. Mi sono messo un cerotto alle mani che sono bucate, capito? Ehi, vabbè, tu se ce la fai a conservarti ti conservi. Se no te li do io e poi quando prendi la pensione me li ritorni, bene va. Sì, no, ma 6-20 euro non credo ci siano problemi, dai. E quanti siamo? Chi siamo? I soliti, più adesso vediamo, devo coinvolgere a Valerio, vediamo se Giulio è in forma, se viene a mangiarsi una cosa. Dobbiamo sentire a Stefano, che è Olbia, che è rientrato al lavoro. Se mi sente le dinanzi, ma futtidini, tu vai sereno, se dobbiamo andare già viene lo stesso. No, non ce n'è problema ai sciolti. E poi, dai, devo sentire un altro paio di persone, vedere un po', comunque già ci siamo, vai, facciamo gruppo, quindi facciamo il Thai pizza, stiamo tutta la sera mangiando. Fini, cosa c'è? Ti vedo a testa bassa, cazzo, questo, quando è a testa bassa è offeso, cosa c'è? Cos'è che hai? E ha ragione, sono le 8:25, un orologio, e cazzo, un orologio, alle 7:30 inizia a passeggiare, a rompere l'anima. Sì, portalo, dai, poveretto, vuol dire che c'ha lo stimolo. Mi, come le dico, andando stiamo, io vedo già contento con la gola, adesso si prepara, non andiamo, io, ma già l'inghendi, esci, mamma mia, un bambino. Dai, Marcoli, se rimani in ascolto, io già lo sai, ci metto poco. Porto giù un attimino, faccio fare la pipì e poi risalgo, ok? Lascia acceso, magari entra. C'è anche Valerio in Querix, no? Sta sempre lì, toccese che non toccese, sempre fa attendere. Vabbè, dai, vai pure. Io lascio acceso, spero di esserci dopo, perché vorrei vedere un telegiornale, che oggi non ho guardato niente, e vorrei vedere anche il meteo. E poi faccio il confronto col meteo della Nuova Sardegna, ok? Piuttosto, prima di andare, guarda il segnale muto, guardalo bene. 9:30, sì, pieno. Perché qua l'ho messo a manetta, potrebbe essere 8 watt, non di più comunque, dai, va bene, vai, fai la passeggiata che quello è contento, dai. Un picchi a 33-35, quindi ottimo, non tocca, se lascia stare così e vai, benissimo, un segnalone il tuo, è quello più alto che ricerco dalla zona, da quella zona lì, capito? Non mi arriva nessuno così, nessuno, va bene, dai. Vado a portare il cane e poi ci sentiamo. Ci avrebbe messo anche Gianfranco in ascolto, ha detto che è in ascolto, che andava a mangiare un boccone, non lo so. Se vuoi rimanere, rimani qua, io torno subito, ciao. Sì, ma lo sai quanto arrivi a questo smitter digitale? 9:45. E io sono sempre con la potenza quella della radio, praticamente 30 di portante bianca, intorno ai 40-45 modulati, però tra me e te ci deve essere un bel varco, qualcosa di buono, perché nonostante usi potenze basse mi arrivi un segnalone enorme. Quando agganci sei 5 dB meno di Antonello, fatti il conto, Antonello liscio, si attacca, mi sfascia tutto, Antonello liscio, però vedi la vicinanza, un segnalone, mentre gli altri sono tutti tra il 20 e il 25, capito? Gianni un pochino più basso di te, se parlate in due vi date fastidio, però il tuo segnale è molto più alto. Sì, tutto solo perché sono vicino, dai, tutto là. E pensare che non è una Mantova, fosse una Mantova sarebbe ancora meglio. E se avessi anche la Camille sarebbe anche meglio. Va bene, dai, buona serata. Per adesso, porta il cane, dai, ciao. Tu qua? Tieni la portante mutta. No, 2, 3, 4. No, mutta. 9:30 a questo smitter. Questo, a differenza del 3009 che ha il 9:30 a strozzo, c'è il 9:30, questo ha la scala che va al 9:60. Quindi Claudio ha un segnale forse più reale dell'altro smitter, l'altro non segna, è troppo piccolo. 9:30, dai, prova a modulare, fischia. Quasi più 30, quasi più 30, vedi? Arrivi più forte quasi da lui che da me, quasi 30, non ci sia il 30, sei 27-28 per esattezza sul 4:40. Mentre tu, Marco, adesso mi hai messo gli occhiali, sei quasi 40 pieno col picco di modulazione, proprio vai a sfiorare il 40. Sì, aspetta. Sì, conta Gianfra una cosa, che questo naturalmente non è un Kenwood, è solo uno smitter a LED di un baracchino, capito? Smitter a LED, poi bisogna vedere quanto è preciso, però almeno è bello, c'è il 960, cioè se uno arriva in macchina sotto casa magari lo segna il 960. 3009 a 9:30 è il fondo scala, non va oltre, capito? Ma ho sentito sotto di te, il più forte sono io qua, chi è? Lo sai chi è, buonasera. Però ti anche sentito sotto di Marco, oh, che la pena, nonostante siamo visivi noi, Marco c'ha un segnalone allucinante, siete lì, dai, siete lì, 35-40 tutte e due, Elio, ciao, buonasera, dai, adesso siete in compagnia, ciao Elio, buonasera, ben entrato, c'è anche Gianfranco, Marco, io vado a portare il cane a dopo, vai Elio. Buonasera, me l'aspettassi. Ciao Gianfranco, ciao Marco, ciao Claudio. Ma io sto usando un baracchino mio adesso, e quindi fate la brava. Va bene, riprendi Marco. Perché io lo sto usando? Ma io ho 5 watt qua, forse 3, 2, 2. Vabbè, 5, 10, 15 o 20 non cambia nulla, da me sei così, dagli altri puoi andare anche peggio o meglio, però siamo tutti, ci vediamo con le antenne, dai. Adesso che ho messo 5 watt dovrei essere un pochino più su, no? Beh, vedi Gianfranco che è sempre con un watt e mezzo, quindi io ho sempre 20 watt, non è che cambia niente. Dai, vado a portare il cane ragazzi, a dopo, fatevi due chiacchiere, arrivo subito, cambio, vai Marco. Aspetta, aspetta la fine. Vieni adesso tra un po'. Ah, fammi i piccini parole, prova. Aspetta la finita. Che uso una tua parata. Aspetta, ricordi prima. Nel frattempo arrivi a Mecla, c'è salito? Sì, sì, tu sei 40 pieno adesso, prima di 35. Qua 9.35. Ritorno di nuovo con i miei bravi due fast. Ecco qua, Gianfranco è sempre in QRP. Oi, come sto? Ah, io Elio, volevo portare il cane, muoviti. Lei che ci piscia, Filippo, mi. Se mi piscia, chiamo Elio a pulire. Ehi, ehi. Ah, io, cosa vuoi sapere? 40, sì, 9 più 40. E lì semi, con Marco tra i videocare. Tutte e tre o tutte e due uguali sono, sia Marco che Gianfranco arrivano 40 qua, tu lo stesso sei 40, se parlate tutte e tre assieme bisogna vedere chi prevale, io ti ho sentito sotto di Marco poco fa. Allo passo. È una brutta notizia, Elio, Marco, non ti passa, ti crepa, non ti sento più. Lo passa anche la me. Ma è più basso qua. Oh, Elio, come mai sei più basso? Ma sei in direttiva. Allora non vale, dai, posizione verticale e orizzontale. Scommetto che è passato anche da te, Marco, Gianfra. Sto passando. Te l'ha giudito, posizione orizzontale, ma fai gruppo. L'avevo provato anche io, mi Elio. Ci mette a fare, no? La verticale, verticale. Dai, sto andando, cazzo, che questo è già nella porta, mi piscia la porta, dopo. Eia, dai, a dopo Claudio, se ci sono ancora. Gianfra, Elio, io andrei a vedere il telegiornale, dai, voglio vedere anche il meteo, così non ho seguito niente, dai. Sentiamo domani, cercherò di entrare prima, tanto è domenica, il tempo è brutto, dice Claudio, quindi no. Rimarrò a casa, dai. Buonanotte a tutti, a domani, ciao ciao. Ciao Marco, buona serata. Buon pranzo. Ti prendi? Elio, a te adatto, mi. Entrare qua. Ciao Marco, buona serata, ci sentiamo, ciao Claudio, buona serata anche a te. E che ti posso dire? E che ti posso dire? Non c'è l'antenna giusta sulla 27, ce l'ho bassa, non mi sono mai dedicato alla 27, sempre sulla 33. Attrizzati, anche quella va bene, ma non ti preoccupare, sei 9.40 qua, di quello ti sei preoccupato, che non stai andando bene, Marco è più vicino di te, è normale, ma siete lì, se parlate insieme, magari è anche attaccato, mi è andato a pignare, capito? Va bene, e poi l'hai staccata la portante ieri? Quale portante? Come si dice? E allora, raga? Ma quale portante? Quella che ci ha messo il gomito per mezz'ora, Sì, era appoggiato con il tuo braccio, stavo scrivendo con la cartiera, ma non è lei, e poi praticamente il braccio appoggiato sul braccio, manca cosa ne è. Per carità, stai diventando vecchio. No, non è certo la vecchiaia, quella vecchiaia è per altre cose, ma per quello è proprio ricordamento, scusami te. vabbè, può succedere, ora eravamo qua, è tornato Gianfranco, sembra avete fatto le prove, no, sono qui che sto aspettando che io tolga il gomito dalla portante. sono poi tra un mese e l'altro me ne sono dovuto andare, perché tanto ho visto che non c'era la famiglia, quindi sono ripartito qua. Va bene, dai, se siete qua ci troviamo dopo, altrimenti vi saluto, vado a portare il cane, ciao. Va bene, buona passeggiata. Qua devo iniziare a scrivere i microfoni, tutti questi microfoni e gli apparati che sono, se no mi sto sconfondendo. Ma non hai apparati, se vieni qua allora, solo i microfoni che sono sul bordo, guarda, avrei la tavola. E qua sono, la tavola sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, non sono tutti collegati nell'apparato, capito? Più quello a mano del coso, del DMR. E quindi si fa fare questo giorno, non ho parlato perché non sono uguali il cable del MC60, quindi uno è collegato al PS2000, l'altro è collegato a un altro apparato, poi c'ho il ZG, poi c'ho l'altro cable del MC80, poi c'ho l'altro Dualuso, poi c'ho questo della Cipriano, che no, insomma, praticamente se no mi confondo, sono due del MC60. Perché qua gli apparati non sono collegati, ma lì sono collegati alle antenne, non collegati in assetto di corrente lì, sono tutti collegati alle antenne. Non ero lì, non potrei ammettere altre due antenne. Di che oggi è arrivata tutta la merce, più che c'è di spazio. Adesso farò le... mi toccherà rifare i test di copertura, anche se ho visto che non fa nuovo, però non è fatto il... ci hanno già pensato loro praticamente. Ecco il problema di croppo. No, ma perché questo qua si fa bene su? Sono tutti collegati, posso parlare di tutti assieme. Stavo dicendo, come ti è arrivato? Stavo la roba che ho ordinato, compreso anche quel, no, quello che mi hai parlato, se volevi piazzare qua. No, mi sono arrivati gli apparati, ho preso apparati, ho te radio, ho dato quello che sta succedendo, non mi sembra più il caso. Stavo detto, ma non mangio le merendine, a preferenza. Mi verrà di ammettere, però meglio merendine e cioccolatini. E tanto anche se mi sarà proprio la foglia di prenderlo il ponte, lo uso per giocare, ma non lo collego certo sulla rete, per carità. Tanto non penso che vada a lungare la cosa. Tutto lì. Allora, adesso che mi fa vedere? Ah, ci sono l'autocucito e un alimentatore, no? Prendo una pizza, te l'ho fatto vedere. E ci ho messo il voltrame con l'amperone, no? E fallo a fallo il digitale, no? Fortissimo. Bello. Cioè l'amperone è color blu. E il voltrame però le... e... cicatrici, gol, cavolo, mi ha parlato, tutto anche la maniera, tutto così, ti ho fatto vedere o no? Elio, io non, guarda, non capisco, non si sta capisco, cioè, non avevo capito, forse sono alimentatori, tutto l'altro, non ho capito quello che stavi dicendo, mi sembri scrambellizzato. Addirittura. Ah. Adesso? Adesso è un pochino meglio, però la voce non è chiara. Sì, e adesso? È più chiaro. Quanti no, adesso va bene. C'è stato un picco un po' strano, però adesso va bene. Forse era troppo fretta, troppo fino. No, forse c'è un tantino che è del microfono. Adesso va messo, guanti, più basta, ma non ho capito. Ah, Ah, che passa di volume? No, me lo continuo e abbasso il magnesio. Aspetta, lo rimetto come la prima e abbasso qua. Aspetta, no. Ok, ciao. Ok, adesso il medio 1, 2, 3, 1, 2. Sì, sì, sì. Va bene. No, non c'è problema. Ma c'è un consiglio la prova di quella parecchia. Tu senti qualcosa? In Italia no, io non sento niente. La velocità verde. No, stavo parlando su Sardegna. 2202. Sardegna. Ma se devi tirare il Lazio, se andavo giù. Ma slot 2? Via, slot 2. Indirizzo. Contatto 2202. E io lo parlo bene, giusto. Vabbè, io sono Moccalotto. Slot 2. Ma quelli sono. Non sono più lotto, sono su una Sardegna. Anche se ti forse c'è 2201 perché fa sul lato, ma quello non capisco. Adesso sono. Vabbè, Ruggiero e Sardegna. Capito? Ma si sa qualcosa o no? Nada! E allora hai sbagliato il coso. Hai sbagliato il con l'indirizzo, dai. Sì. Hai sbagliato l'indirizzo, ma non è. D'altronde, con il freddo, non c'è nulla roba. Italia, se c'è qualcosa. Adesso lascio così. No, la doccia. Vabbè, qua c'è solo un po' di... Vabbè, tu senti qualcosa? Io niente. Beh. No, se ci sono sei capa, ma sempre parlando. Bene. Ah, quello non è. L'anno scorso, ho fatto male, ma troveremo la soluzione per il telefono. Ascolta, ma di quella cosa... Ma sai di chi chiamo? Non è segreto. Chiama, se avete colto la tua sottotitola, ma... Ti faccio un filo così lo trovi su tutto il giorno. Ma devo rispondere? Se non rispondo devi farlo sbullare, non so chi sta, e non si sta cosa. Sì, io rispondo, se non rispondo. Certo. E beh, siete morti? Dicevo, se non vuoi passare lì, passiamo di là, passiamo di qua. No, non c'è problema, certo, cosa dobbiamo dire? Dobbiamo già detto. Non è che diciamo sapere quello, perché così almeno... Ho bisogno per la persona che è interessante. Va bene. Sì, però la lontana vuol telefono e non sta soffrando la scarica. Va bene. Mi hai dato più sotto. Ma ve la fate? Ah, per telefono. Gappa, gappa. Mi sta rimettendo l'orecchio, già non l'hai visto. Beh, sì, ho visto. Vediamo cosa mi dice. Non ci credo, lo sto cercando. Sì, guarda, c'è quello lì che ha detto a me, portatile, 309 euro, mi sarà buono? Ah, eccolo qua, sì, sì. Però va bene. Per tu che non dovete fare niente di particolare. Così magari se lo compri anche tu. Non lo compri un apparato di quelli là, di quelli là che hai provato, Claudio. Ma non lo abbiamo capito. No, no, no, per prendere quella cifra te l'ho detto. Aggiungo, scusa, 80 euro, no, 80 euro. bisogno di esercizio. Ci piano avanzaero, non si prende, vabbè. Ci piano avanzaero, circolare. No, guarda, io sto guardando e qua, il 75, sì, 395. No, non lo vedo, 395. È quello sempre lì non si può, e infatti l'altro costa, l'altro mi costa 5,75, questa è di chiesa, anche per la preghiera sulla vita. Scusa, dove stai guardando il 5,75? Costa 4,45 quello con il 5,75, fate lo che stai guardando. Sì, ma l'altra cosa, capito, l'altra cosa, quello 4,45, quello che dico io è quello che è 5,75, quello che è quello che studio, però quelli normali, però c'è un po' di più. Vabbè, c'è un po' di più, ma no, io prendo questo qua, va benissimo, 25 va, ottimo, invece che 5. Se poi ti do il cavo, no, se lo faccio, se ti serve il cavetto di programmazione, e tanto ci devi sempre mettere le mani. Già laggiù, nelle spiegazioni, clicca l'MD quello lì, no? Quello che costa di meno, scendi giù e c'è scritto dotazione, ok, e poi c'è scritto opzione, quanto va? Sì, sì, quelle sono le opzioni che devi pagare per... ma stai attento che questo non è altro con copia e incolla, sono tutte identiche, anche su quelli di cosa, diciamo, più spinto. Sì, ma ho capito, ma quello che ti dico, crittografia, modulo, no, mi serve o non mi serve? No, puoi proprio usare, che diversa, non lo puoi proprio usare. Ah no, vabbè, la crittografia ok, ma dove no, questo modulo, non lo so, non lo so. Quelli altri che vedi sotto, quelli che vedo io sotto interessano a me, che sono per uso sperimentale, tecniche di multiaccesso e così via, microfoni con tastiera, che è stato questo qua che prende un prezzo folle e tutte quelle altre cose, modulo soundbars per le funzioni avanzate, solo quello possono fare noi, capito? Va bene, dai. Perché facciamo questo, ma qua c'è comunque ti conviene, se ce li ha disponibili ti conviene sicuramente, cioè ti conviene nel senso se interessa a te, se ti interessa, se sei proprio innamorato di un apparecchio, prendilo, questo è sicuro, potrebbe prepararti di fascia alta in ogni caso, con quel prezzo che sono quasi due di banda economici. Infatti, per questo capisco. No, vedremo così. Va bene. Vediamo questo, va bene, ma questo lo vediamo. Chi va a prendere? Io vedo che c'è il suo libro di seguito. Non stai facendo? Sto chiedendo. Secondo lei che non vedo più in fabbrica. Stavo dicendo. Sarebbe detto. Ma guardi, lo fai spazzato. Qua sono io, state parlando voi, cosa mi devo intromettere, cose che non mi interessano. No, già, non dire... Ehi, ho detto qua sono, qua. letto, sono rientrato, ho visto che stavate parlando di ripresi e di cose, sono rimasto in silenzio. No, ma questo è passato l'unico, ma si è allontanato da me. No, faccio santa, togli il messaggio a Filippo. Mamma mia, non mi difendere come io. Ciao, Peggio. Che fa una cosa la volta. No, Peggio posso diventare io. No, c'ho anche mal di gola stasera. Non so, forse ho preso un nuovo qualche colpolare stamattina, questo cacchio di vento. Non so, mi prendo un antifiammatorio di nuovo. Se non riesco a rientrare più al lavoro io, mamma mia che noia. Io perché mi sto cantando, aspetta. Cosa incogliamo i tuoi giochi, forse via. E sono impiccato la gente che... La pompa di calore, mamma, la faccia. Freddo, no, ho 20, quasi 23 gradi e mezzo, cioè io qua in stanza, si sta da Dio, sono col pigiamino leggero, si sta benissimo Gianfranco, no. Freddo non ne ho mai sofferto io, né quando ero suono piano, né qua, qua ancora peggio perché sono più in basso e c'è molto più caldo, assolutamente, per quello non mi posso lamentare. No, ma qua non c'è preso perché era spento, un capolato. Vabbè, ma l'ha acceso così. Andava in costa. E io, ci vedi dalla tua canzone? Sì, no, sto andando un altro sito olandese. Un secondo, se mi chiami non ti rispondo, ma sono qua. Papà? Ok. Sì, guarda che però l'altro, perché il nome è quasi identico, a dove di prima, sempre ama, eccetera, quello lì mi ha mandato la lettera che non, che stava non vendendo in Italia, per questioni fiscali, non so. Ok, diciamo. Non lo so esattamente se c'è qualcosa, io ho preso da un altro che senza domanda, però non è gira adesso, poi in tutta Europa, questo, sia in Olanda, Germania e Inghilterra. Ho preso un po' a rischio pensando che, e invece ho visto che sono un po' a rischio e c'erano anche gli apparati in magazzino, cosa veramente eccezionale, perché se no aspetti un bel po'. Non importa, non so perché, ma non importa, e quindi ti vedi. di volgere all'estero, siccome all'estero penso che sono stato il primo motivo di prendere quel particolare apparato, non con le caratteristiche, dove non faccia altro. Quello che c'è tu, sto pensando di baciarlo e prenderne un altro, queste come si chiama, queste 155. Io sono un po' di gusto. Molto caro. guarda, mi gusta. Sono qua in stazione, io ricordo ne ho 4, 5. Però io sono maniaco, mi viene un discorso proprio separato. Sì, ma intanto adesso prima o poi si passerà tutto in digitale, quindi non... sarà molto difficile rimanere in, così. Perciò questo passo bisogna farlo, insomma. C'è già chi a buon punto con questi portatili, ma alla fine ci vuole il base, ci vuole, insomma, bisogna essere attrezzati. Vabbè, piano piano arriviamo anche a quello. E così è finita del tutto. E comunque andiamo ancora per poco, dai. Vedo che già sta. Ho visto proprio. La trombe era da sempre. Cioè non è che sia una distinzione. In tutte le società, in tutte le associazioni, in tutti i gruppi di persone con cui si spiegano, TV, paesi, città, così via, adesso ancora lei ci sia sempre a parte della ratavana, se no saranno perché si prendono in maniera diversa. Però così. Sì, beh, il destino è quello, tra poco, so che stanno già consegnando anche i portati, gli apparati, la protezione civile, che fa stato sentire me, il water. Quindi sarà così, sarà anche parlando di ponti, ma deve essere così. Passaggio di merda bisogna farlo perché è molto più protetta, più selettiva e non ci sono discorsi da fare lì. Quindi va bene, dai, io vi saluto, vado a cenare, io sono 9:25, ciao Ilio, ciao Gianfranco, chiunque fosse in ascolto sul canale 10. A domani, buon proseguo di fine serata, buonanotte a tutti, e a domani, ciao, riprendi Ilio. Scusa Ilio, poi non ci riusciamo a fare una cosa, Claudio, comunque già lo sa anche Gianni che ci è riuscito, anche Marco, pare che lo stiamo loro. Sì, mi sono dimenticato dietro, sì, te lo volevo dire, sì, a posto, ho inserito, come hai detto tu, Google Chrome, funziona perfettamente, però anche io ho notato un po' di ritardo sulla voce, ma niente di che, lo so che è un po', come si dice, imparinata la voce, dai, un po' nasina rispetto ad altro, però è normale, è NDMR, dai. Sì, ma infatti non immaginate che sia come l'FM normale, assolutamente, la banda stretta, molto stretta di questi 5, e quindi è ovvio che sia, non sarà mai una... cellulare, una radio da telefono, non può essere una radio locale, proprio perché è nata così, la professionale non interessa la modulazione forte, timpante, eccetera, non sa di tu infatti, interessa capire, basta, quella è essenziale, capire. Sì, beh, poi io di mare lo conosco, me l'hai fatto conoscere, quindi lo so, una modulazione è così. Ecco perché infatti l'ho detto anche a Gianni che è così, capito? Va bene, dai. Allora voglio alla prossima, ci sentiamo di MR. Ciao Piuma, tante cosce belle, ciao a tutte e due, ci sentiamo domani. Vado a cenare, per me QRTSK, ciao. Così almeno siamo fuori da tutto, tanto c'è il canale sempre, quindi si è sentito. Elio, allora, ma soprattutto, anche comprare, anche se è arrivato. No, non ho ancora. Ciao, buona serata. Ciao, buona cena, buon fine settimana. Un po' sofisticato, ma non ci vedi, quindi è rimasto come una lettera rotta, perché occorre almeno una persona per provarlo. La rasura, sì, gli abbracci sono stati miracoli, però in un certo senso. Comunque il canale di riferimento è sempre quello là. Sì.